Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Non doveva partire. Cara signora Anna, non era più possibile che un uomo raffinato e sensibile, un antiquario colto ed esperto come Dante, non poteva continuare a vivere senza essere andata almeno una volta in Inghilterra, vero? La colpa è tutta la sua, caro Conte Bolle, di quei vagabondi di vostri amici. Non fate altro tutto il giorno che parla di moda inglese, di spacchetti, di ombrelli, di bombette. Parlano. Ma la colpa è la mia, se non posso sentire quello che dice mia moglie al mio miglior amico, il Conte Bolle, ma posso immaginarlo. Mia moglie è una brava donna, semplice, ma anche un po' ignorante. Io sono un antiquario, colto ed esperto. Potevo continuare a vivere senza andare in Inghilterra. Il signor Dante Fontana, antiquario di Perugia, non può fare a meno di raggiungere il culmine delle sue aspirazioni, quindi partire da un Fiumicino anni 60 e andare verso Londra. Naturalmente questo è soltanto l'inizio dell'avventura che sarà sconquassata di Alberto Sordi, Dante Fontana. Naturalmente questo non è altro che quello che noi abbiamo sempre pensato, immaginato, abbiamo avuto galleggiante nel nostro immaginario su quella che era l'area dell'Inghilterra, o perlomeno del Regno Unito generale, visto che parlando di Brexit parliamo di Regno Unito. Beh, cosa siamo stati abituati, almeno la nostra generazione, a considerare l'Inghilterra? Era il luogo in cui si andava come faro delle mode, la liberazione sessuale, la musica che ha sconfessato ogni stereotipo precedente, il senso di libertà, il senso di anche della moda. Io mi ricordo che da Perugia proprio, che io frequentavo perché c'ero nato esattamente come Dante Fontana, partivano i giovani della Perugia Band a Londra a comperarsi le scarpe Barrows, che erano scarpe a punta, che facevano nelle Marche, le andavano a cercare a Londra perché erano scarpe che avevano una vaga parvenza di eleganza inglese. E oggi stiamo parlando? Parliamo dell'Itexit. Itexit, che è qualcosa che non esiste nemmeno, è contemplato nella nostra Costituzione, non potremmo fare mai nulla di assimilabile a quello che è accaduto nel Regno Unito, però già vedo nell'hashtag Itexit su Twitter gente che mette le fotocopie delle antiche 50.000 lire, 100.000 lire, dice anche noi. Cioè, vi ricordo soltanto così per scrupolo estremo che non hanno mai abbandonato nel Regno Unito la sterlina, hanno continuato comunque a avere le loro unità di misura, hanno continuato a tenere la mano contraria guidando, quindi erano rimasti comunque inglesi, è una cosa di tipo diverso. Però io questa mattina voglio farvi riflettere su un'altra cosa. Il Regno Unito, che è stato per noi faro di innovazione, di rottura delle regole, oggi ha fatto questa scelta, e questi sono i dati che parlano, diciamo l'analisi demografica del voto britannico. Hanno vinto in realtà gli Umarell. Sono gli Umarell che hanno segnato il cambio così radicale e così considerato come un faro per tutta l'Europa. Si parlerà di exit per la Francia, per l'Olanda, probabilmente anche per l'Italia, già lo stanno vagheggiando. Beh, questo cambio, questo passo che noi consideriamo come un faro, e non vi parlo una persona che né ero entusiasta né ero scettico, non mi importa nulla, in questo momento voglio osservare un dato. Noi stiamo parlando di qualcosa che è stato determinato da una popolazione anziana, gli over 65 in Inghilterra hanno deciso che in realtà no, bisogna uscire, andare fuori. Perché? Perché la popolazione più giovane, la popolazione diciamo che va dai 18 ai 24 anni, beh, il 75% di questi hanno detto no, rimaniamo dentro, e invece l'Umarell ha vinto. E quindi questa mattina voglio misurare la pancia degli italiani, esattamente, voglio fare un'operazione di misurazione. Cosa vi sentite da questa mattina che sentite radio, televisioni improvvisamente parlare del Brexit come qualcosa di sconvolgente? Ci credo, guardate i più grandi quotidiani nazionali, fino a ieri erano tutti convinti che si rimanesse dentro, ci sono stati anche velocissimi cambi di posizionamento politico, sapendo che comunque avrebbero vinto quelli che confermavano l'idea che forse conveniva rimanere dentro l'Unione Europea. Invece questa mattina c'è stato lo sconvolgimento. Ecco, alla luce dello sconvolgimento, quanto vi sentite sconvolti? Cosa fareste voi? Cosa vorreste fare? Se voi poteste, per assurdo, in questo momento avessi la bacchetta magica e potessi dire Umarell d'Italia, a voi la scelta, cosa fareste? Esattamente, quale sarebbe il vostro atteggiamento? Marco, buongiorno. Buongiorno. Io sono molto preoccupato, come penso la maggior parte di coloro che hanno i figli che lavorano a Londra. perché a lei è preoccupato soltanto perché c'è il figlio che lavora a Londra, in generale non è il destino generale dell'Europa. Non solo, ma cade un mito veramente, come diceva lei, l'Inghilterra per noi è sempre stato il faro, io ho 65 anni. E quindi lei è un'umarella a tutti gli effetti, fra quelli che hanno determinato comunque il Brexit. No, io ero perché l'Inghilterra rimanesse in Europa, ma loro sono sempre stati molto diversi da noi, cioè diciamo loro si sentono diversi. Però pensi un attimo Marco, cosa le diranno adesso i suoi vicini di casa? Tuo figlio lavora in un paese di extracomunitari, è indubbiamente così. Sarà così a tendere, ci saranno adesso le negoziazioni, non è che l'uscita si esce così, arrivederci tutti, sbatto la porta e me ne vado. Passerà sicuramente un bel periodo di tempo, dovranno negoziare varie vicende, però ormai il destino è quello. L'Inghilterra sarà un paese di extracomunitari e nell'accezione che abbiamo noi, geneticamente, sbagliata sicuramente, ma del termine extracomunitario cambierà radicalmente il nostro punto di vista, o sbaglio? No, non si sbaglia, anche perché in Inghilterra non lavorano solamente i nostri ragazzi che fanno i camerieri, ma lavorano dei grandi cervelli e vanno lì perché la società è sempre stata più recettiva e anche diciamo con più opportunità. Oggi speriamo che non cambi niente. Però suo figlio è andato a fare il cameriere, come tanti ragazzi italiani. No, mio figlio è andato a lavorare in uno studio dopo aver fatto 5 anni di architettura e un anno di master. Visualizzazione. Allora perché ha detto cameriere, scusi? Prima ho capito male. Voglio dire, in generale ai cervelli, ha capito, ci sono 600.000 ragazzi italiani che lavorano a Londra, solo a Londra. Quindi diciamo, quindi secondo lei oggi chi inneggia all'Itexit non considera questo dato? No, esattamente, non lo considera perché comunque ci saranno delle ripercussioni, sicuramente. Una cosa è sentirsi fighi, cosa fai? Lavoro a Londra, beh beato te, che bello, sei nella City, sei nel Sancta Sanctorum dell'innovazione, nello stesso tempo anche della conservazione, ma comunque delle cose fighe che accadono nel mondo. Oggi ti possono dire, beh stai insieme a quegli extracomunitari, esattamente uno si sente coperto dal disprezzo, però ha visto che l'argomento sollevato l'ascoltatore Marco, e invito gli altri ascoltatori ad aiutarmi a completare questa sorta di sommario e rozzo sondaggio della misurazione della vostra pancia, e aveva posto il problema dei nostri ragazzi che lavorano in Inghilterra. Cosa facciamo? Li richiamiamo tutti? Possiamo tollerare che rimangano lì soggetti di extracomunitari? Oppure siamo palpitanti di ansia per quello saranno i nostri figli? Ecco, il primo segnale della pancia degli italiani è dei figli d'Italia che lavorano a Londra, cosa sarà di loro? Pensano già, ci saranno forse deportazioni di massa, forse miseria, non so, li guarderanno con un occhio di disprezzo perché loro ancora sono dentro e gli altri sono usciti. Davide Mauriello, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Davide Mauriello, lo chiamiamo, sta a Londra, ha 35 anni, ha lasciato l'Italia per un'offerta di lavoro, lui si occupa di progetti, di start-up, di applicativi, insomma è un informatico, progetta sistemi informatici. Questa mattina ti sei svegliato anche te, come probabilmente il signor Marco, con il papà che ti chiama e dice figlio mio torna prima che ti caccino, succeda chissà quale cataclisma, o non è questa la percezione? Allora diciamo c'è una piccola distinzione da fare, i lavoratori che rischiano di uscire sono quelli che non hanno una posizione di lavoro specializzato, per cui tutti quelli che sono dai camerieri ai facchini, agli autisti, ai cuochi eccetera, diciamo sono quelli che rischiano di doversi fare le valigie entro 2 anni, perché comunque prima di 2 anni non succederà nulla, e trovarsi una nuova sistemazione nel proprio paese o in un altro dell'Unione Europea. Davide, questo spauracchio già circolava, tu ormai vivi a Londra da qualche tempo, quindi conoscerai anche italiani. Io vivo a Londra da qualche tempo e dico che a Londra questa cosa era assolutamente impensabile, nel senso che anche poi vedendo i dati sui giornali è palese come su Londra l'idea era solo quella di Remain, tant'è che ovunque si camminasse a Londra per questi giorni c'erano comitati di persone che invitavano a votare per Remain, c'erano persone che ti fermavano, ricordati di andare a votare, di votare Remain, c'erano persone che ti dicevano ricordati ci sono le elezioni, ma tantissime, cosa che io per esempio in Italia non ho mai visto a questo livello. Quindi siete andati tutti a letto tranquilli dicendo domani non cambia niente, restiamo tutti dentro. La questione è esattamente questa, nel senso che oggi le persone davanti alla televisione a Londra stavano con le bocche spalancate, ma della serie proprio, ma è un sogno o sei un desto? Ma allora resta in ascolto, vediamo di unire una alta professionalità al nostro dibattito per capire esattamente qual è stata la strategia della fetta di umanità che ha determinato comunque l'uscita. Danilo Masomasotti, buongiorno. Pronto, buongiorno. Allora Danilo, vorrei essere serio questa mattina, il fatto che chiami te, già la gente, già vedo in tonti che ride al di là del vetro, adesso la buttiamo in facezza sull'umarello. Però guarda, credimi, sono veramente serio questa mattina, sembra impossibile. Tu mi devi spiegare, dalla tua profonda conoscenza del campione antropologico, che tu per primo, e di questo te ne ho sempre dato merito, hai individuato, selezionato, osservato e descritto, è quello dell'umarell, tu che conosci esattamente gli usi, i costumi, gli orari, le metodologie di attacco e di resistenza dell'umarell, dimmi come hanno agito gli umarell inglesi secondo te, perché come ci ha detto l'amico che sta a Londra, tutti si aspettavano comunque fino al cuore della notte che non sarebbe accaduto questo. Come hanno agito gli umarell? Quando sono usciti di casa? Come hanno dissimulato la loro intenzione? Come si sono coordinati secondo te? Secondo me è mancato un fattore che invece qua in Italia non manca mai, ovvero gli umarells presumo che non siano stati coccolati. Per farti un esempio, carenza di cantieri, qual è stato il problema? No, carenza di coinvolgimento. Ti faccio un esempio locale qua della mia città, Bologna, dove ci sono appena state le elezioni per eleggere il sindaco. A differenza di altre città, qui a Bologna il sindaco è rimasto lo stesso. Lo stesso sindaco nel suo spot pubblicitario elettorale ha utilizzato proprio degli attori umarell, cioè proprio coinvolto gli umarell. In questo modo, cioè, la vittoria è apparsa scontata. Quindi non c'è stato un coinvolgimento emotivo, sono sentiti emarginati, perché i veri emarginati sono stati loro a questo punto, in questa sorta di sogno efficientista e giovanilista in cui sembrava che il parere dei giovani fosse fondamentale. L'umarell nell'ombra è rimasto, ha cospirato, si è organizzato e ammazziato. L'umarell ha cospirato, e poi io non so come sia la condizione economica degli umarells inglesi, perché come ho sentito anche le telefonate precedenti, comunque c'è un discorso anche di patrimoni, di cose da perdere. Allora fermo un attimo Danilo, siccome mi sembra fondamentale questa analisi, e Davide Mauriello da Londra, che è un osservatore attentissimo della società londinese, occupandosi lui di informatica, quindi coglie la testa e la coda del malumore e del pur resto della società, ci aspetta un attimo, riflette e prende respiro, perché la domanda è questa: l'umarell inglese quanto si è sentito emarginato, quali sono stati i motivi di questa emarginazione perché potesse attuare questa palpabile rivolta? E ha fregato tutti, ha fregato gli indicatori, ha fregato i sociologi, ha fregato gli istituti di sondaggio, la stampa, anche Severgnini fino a ieri sul Corriere della Sera, il più inglese degli inglesi, anche se italiano, diceva beh tanto rimarremo dentro, e oggi invece sono fuori. Come hanno ordito e agito gli umarell? Questo è un dato importante perché è un indicatore delle derive che avrà l'umanità, non soltanto l'Europa. A tra poco. JP Morgan Asset Management vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Mettetevi vicino a quello con la bombetta, altrimenti non ci credono che siamo a Londra. Pasqua, Salvador. A peggio foto? Vicino a quello con la bombetta, davanti. Scusami, mister, un momentino. Beh. Italiani? Sì, signore, o italiani. Siamo. Del sud? Del sud, sì, signore. Bambino. Pronti? No? Buono? È buono. E non vi fate conoscere da tutti per quelli che siamo. Ma chi è? Ritorniamo alla caduta del sogno di Alberto Sordi, l'antiquario perugino che vede a Londra come il faro della civiltà, dell'innovazione, del cambiamento, e sentiva come qualcosa che gli pesava, come un orpello del passato, il corso Vannucci di Perugia, la provincia che lo opprimeva, va a Londra, finirà come Andreuccio da Perugia nel Decamerone, in situazioni del genere naturalmente, come sempre accade di chi vuole sconfinare dalle proprie angustie genetiche e irrinunciabili. Beh, io sto lavorando in maniera molto interessante e divertente sul dato, l'unico dato certo, avete sentito, le borse del mondo stanno crollando. Chi ha determinato questo crollo? Possiamo identificarlo, allucinarlo? Beh, è un signore inglese che ha più di 65 anni, che vive probabilmente in zone periferiche o se non addirittura nelle campagne, con un tasso di istruzione limitato. Quindi è l'Umarell che va a fare l'orticello urbano, che non si preoccupa di informarsi se non su le pagine giornali attaccate davanti alle edicole. È l'Umarell che sta cambiando il mondo. Perché? Perché ce lo stanno dicendo anche i nostri ascoltatori. Dice un ascoltatore, non so se riusciamo a intercettarlo, dice perché è molto chiaro, perché i giovani hanno inventato le arguzie di borsa, i subprime, i derivati, e hanno succhiato tutte le risorse degli Umarell, e gli Umarell sono così vendicati. L'aspetto sportivo poi incide molto, poi ci sono veramente quelli che dicono adesso l'Inghilterra non deve più partecipare agli europei di calcio, non c'entra niente, però come vede si ritorna nuovamente a un campanilismo. Una battuta solo, Danilo Masotti, l'osservatore antropologico della tipologia umana, che in questo momento ha messo sotto scacco tutto ciò che il mondo civilizzato occidentale considerava più all'avanguardia, anche con notevoli danni autoprodotti. Danilo Masotti, mi segui in questa analisi? Prova a immaginare l'Umarell britannico questa mattina felice. Non so come funziona esattamente da quelle parti, se i luoghi di aggregazione sono gli stessi, se i sistemi di informazione sono gli stessi, ma la vittoria è stata grossa, notevole. Sì, la vittoria è stata grossa, come ho detto prima, non essendoci stato il coinvolgimento, sicuramente per questo ha vinto. Poi forse l'Umarell non aveva tanto denaro, tante proprietà da proteggere, allora ha fatto il voto di protesta, che qua invece di solito lo fanno quelli più giovani. Questa può essere una mia analisi. Quindi diciamo tutta la finanza creativa, tutte le grandi organizzazioni sono state messe sotto scacco da l'Umarell, sì, che è stato lì aspettato che tutti si pascessero e sentissero il sapore di una vittoria, e poi agito e operato. Tutta la finanza, tutto questo denaro viene distrutto dall'essenzialità dell'Umarell, un orto da coltivare, mi basta questo. E non, il non proprio orticello, sapere, proprio, lo esatto. Dice anche il luogo comune, hanno pensato a salvare il loro orticello, poi quello che accade nel mondo a loro non interessa, l'importante è il confine, è il canneto che separa il piccolo lotto dell'orticello comunale tra un Umarell e l'altro, quello è il confine dell'universo, il non plus ultra, le colonne d'Ercole invalicabili sono lo steccatino fatto con rimasugli di risulta di cantiere, che delimita l'orticello con le cipolle di Umarell da quello con le patate dell'altro Umarell. Davide Mauriello, tornando a un'analisi anche di tipo diverso, dal tuo punto di osservazione, esiste questa sorta di classe anziana, abbastanza emarginata, reietta rispetto a quello che noi consideravamo più pulsante, più vivace in Inghilterra, che sono quelli che poi hanno determinato il cambiamento? Allora, io in questo periodo sto lavorando tra Londra e Birmingham. Tra Londra e Birmingham i dati riportano dei valori completamente diversi. Se a Londra il dato è tutto sul remain, a Birmingham è esattamente l'opposto. Io devo dire che camminando tra i due... Ecco, mi dici, spieghiamo bene, qual è la differenza proprio ambientale? Esatto, diciamo, esatto. Camminando tra l'uno e l'altro... Londra... Fai degli esempi italiani per farci capire, capito? No, ma è molto semplice capire la differenza. A Londra praticamente quasi ogni posto che è frequentato da chiunque, quindi alle fermate dell'autobus, in orari anche diciamo non per forza legati ai giovani, quindi alle 10 del mattino, alle 12, quando comunque magari anche i pensionati girano di più piuttosto che un ragazzino di 20 anni o di 30 che va al lavoro. Erano pieni di comitati per il restare. A Birmingham allo stesso modo non ce n'era traccia, cioè non c'era proprio assolutamente la possibilità di immaginarsi qualcuno che ti veniva e ti si avvicinava per proporti di votare e votare di restare. Io ho partecipato a una conferenza a Madrid questa settimana sulla finanza e tiravano fuori un altro dato che è un po' da un lato preoccupante, da un altro diciamo dallo specchio un po' di quello che sono i giovani oggi, ovvero tra le varie cose che si sono dette sul Brexit, ovvero tutti dicevano che sarebbe andato secondo anche la previsione di Severnini, si è detto anche un'altra cosa però, se piove probabilmente vincerà il Leave, perché i giovani inglesi non sono abituati così tanto ad andare a votare, non sono così adusi a votare, come sistema è un sistema che per loro è ancora diciamo non comodo, se piove probabilmente ci potrebbe essere una sorpresa. Ieri qui a Londra c'è stato il diluvio universale, si sono allagate le metro, che è una cosa insomma che non è come però a Roma, guarda, anche questo dato meteorologico è importante. Allora l'umarello inglese, se piove è attrezzato all'impermeabile, le galosce, l'ombrello, ma è abituato a comunque farlo, perché l'ha fatto, l'ha esce fatto altre volte. Il giovane che non si vuole bagnare vita resta a casa e non vota. È interessante, esatto, questo dato. Danilo Masotti, su questa ulteriore specifica legata alla meteorologia, ritrovi delle similitudini? Io la similitudine che ritrovo in Italia è che l'Umarell comunque va a votare. Per l'Umarell il voto è una conquista ed è fondamentale. Quindi non, anche non se può piove, neanche tira vento, ci va. Sì, sì, e poi è un'occasione di fare delle file, è un'occasione di uscire, di fare vedere qualcosa, gente. Sì, questo. E quindi diciamo nel dato comune che ci può essere fra i due campioni antropologici dell'Umarell inglese, l'Umarell britannico e l'Umarell italiano, abbiamo già visto questa maggiore intrepidezza nell'affrontare le intemperie, la pioggia, sì, quindi perché naturalmente avranno stivali di gomma, calosce, impermeabili, ombrelli, quindi ci vanno. Il giovane non è attrezzato, a quasi luglio non pensa a doversi, ha messo già via tutto e va in giro con l'infradito, dice non mi voglio bagnare i piedi. Sì. Claudio, buongiorno. Claudio. Buongiorno Nicoletti, io la mia esperienza con gli inglesi l'ho avuta più conoscendoli tra Europa, Asia, Africa, in viaggio, e loro mi hanno sempre spiegato: Claudio, you are European, we are English, quindi al di là della pioggia, al di là di Severnini, al di là di tutte le considerazioni del signor Davide che vive, se ho capito bene, a Londra e ha avuto sul terreno, i miei inglesi mi hanno sempre viaggiatori, quindi non necessariamente tutti Umarell, però anche diciamo dei signori che magari vivono in Spagna, sulle coste spagnole, o vivono in Africa. Vabbè, lei prende i pensionati che vanno a vivere come anche in Italia, a Lisbona. Mi scusi, anche giovani inglesi viaggiano da viaggiatori con lo zaino in spalla. Il concetto è: you are European, Claudio, we are English, goodbye. Questo il signor Severnini lo sa, anche Davide. Probabilmente quelli che gli hanno risposto non gli hanno detto la verità, non gli hanno detto, e questo è un dato fondamentale. L'Umarell è mendace per natura, ha capito che non bisogna mai dire quello che si pensa, ma è pensare quello che si dice. Questo è chiaro, è la prima regola dell'Umarell: stare in silenzio, osservare, ma non dire mai la verità. Mica uno non si fida l'Umarell. Però giustamente quelli che vede lei non sono quelli che hanno determinato il cambiamento, che sono stati belli accucciati nelle loro case, nei loro pub, e hanno aspettato il momento fatidico, il momento del massimo temporale per infilarsi gli stivali e andare a votare. Nessuno se l'aspettava. Era un campione di umanità nascosto che nessun indicatore aveva pensato che potesse avere un potere così forte. Su questo rifletterei. A tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Stiamo analizzando il dato del Brexit, ma da un punto di vista puramente antropologico. Abbiamo visto che questo cambiamento che sta facendo tremare il mondo è stato determinato dalle persone che hanno più di 60 anni, con uno scarso livello di aggiornamento culturale, che vivono in aree periferiche. Quindi è quanto noi possiamo considerare di più passatista, di più conservatore, di più tendente a mantenere uno statu quo che ha vinto rispetto a tutte le istanze del mondo. Questo noi lo abbiamo sintetizzato in un dato nazionale che tra il serio e lo scherzoso ha messo a punto comunque e in realtà corrisponde a qualcosa di concretamente accertabile Danilo Masomasotti. Ho osservato per anni i signori anziani bolognesi pensionati che guardano i cantieri, che coltivano l'orticello, che mantengono comunque per generazioni figli e nipoti con la loro pensione, e ha visto che in fondo sono una parte fondamentale e un asse portante, anche se non molto osservato della realtà. Beh, nel Regno Unito hanno vinto gli Umarell, alla faccia di tutto e tutti, di tutte le previsioni, di tutte le letture scientifiche, delle derive sociali, ha vinto il vecchio, anziano, immarcescibile Umarell. Pierpaolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senti, io ho vissuto per circa 3 anni in Inghilterra e ho avuto contatto anche con quelli che voi definite gli Umarell. Ma non è un termine dispregiativo, è ormai un termine scientificamente riconoscibile. No, c'è un'evidenza scientifica sull'esistenza dell'Umarell, sui suoi usi, sulle sue transumanze, sulle mutazioni che avvengono nella società quando c'è una densità particolare di Umarell. Sono dati osservabili da tutti. Sì, ma attenzione, ci sono due tipologie: quelli che veramente hanno grossi, grossi problemi economici e quelli che hanno una buona pensione e quindi un alto livello di vita, però ambedue praticamente soffrono, perché stando là ho parlato molto spesso con tanta gente, soffrono di un grosso problema della mancanza dell'identità del Regno Unito, del vecchio impero, e prima di tutto odiano la faccenda che si trovano una marea di giovani incuranti delle loro necessità, soffrono del fatto che non possono, che non trovano le loro misure sui loro alimenti e la vedono come un'invasione della loro vita. Quali sono i loro usi quotidiani, per capire meglio se il parallelismo è azzardato o concreto? Loro hanno molti centri sociali dove praticamente passano le loro giornate, hanno i loro posti che potrebbero essere più o meno le nostre bocciofile, per capirci. Quindi diciamo che i sistemi di vita e di uso del tempo corrispondono più o meno come il centro anziani da noi. Sì, assolutamente. Sono un po' più organizzati, ci sono un po' più delle attività che li raggruppa e quindi formano un centro d'opinione. Poi vedi per Paolo, lei mi aiuta, questa è la differenza. L'Umarell italiano in fondo ha uno spirito anarcoide, si aggrega spontaneamente davanti a un cantiere, ma dopo un secondo c'è la diaspora, ognuno se ne ritorna a casa sua. L'Umarell inglese invece ha capito che in realtà l'unione fa la forza e trova dei punti di coesione, quindi incide concretamente nella società. Questo sì, però è da ricordarsi due cose: che loro soffrono veramente questa mancanza di entità e questa invasione che hanno avuto, una invasione giusta, perché Londra a volte offre tante cose, a volte frutta. Ma da chi si sentono invasi? Dagli stranieri, dalle persone? Si sentono invasi dagli stranieri, loro hanno i loro stranieri, loro vogliono i loro stranieri. E quali sono i loro stranieri preferiti? I loro stranieri preferiti sono quelli del Commonwealth, quelli tranquilli, quelli che dicono yes man, quelli che sono di colore diverso ma accettati in quanto gli ricorda il vecchio impero. Questi sono gli ex schiavi delle colonie, per essere chiari. Gli indiani, ecco, che dicono sì. Io non l'ho detto, però è così. È così. Fermola. Danilo Masomasotti, vediamo se tu riesci a individuarmi nell'Umarell bolognese un simile atteggiamento. L'Umarell, che è nostalgico del Commonwealth, si immagina che gli unici stranieri possibili siano quelli che appartengono alle colonie, quindi i sudditi della regina. L'Umarell bolognese, che è l'esempio, l'Umarell italiano, quali stranieri ha simpatici? Cioè, ti faccio l'esempio, i Bangla che vendono la frutta gli stanno bene, gli africani vendono le collanine no, è così? Allora, parallelismo con quello che è stato appena detto, qui in Emilia Romagna comunque c'è quel modello di aggregazione di Umarells, Quindi qua ci sono dei circoli belli organizzati e lì l'Umarell, cioè, domina incontrastato, fanno gruppo, non solamente analcoidi in un cantiere con... Dice intanto Bangla è razzista, no, Bangla è il corrispondente degli unici posti felici, aperti, nottetempo, dove si può comprare frutta, verdura, sì, superalcolici, gestiti da gentilissimi e attivissimi signori del Bangladesh, così vengono chiamati a Roma, non credo, sì, che sia dispregiativo, anzi... L'Umarell, almeno nel territorio che osservo io, vede di buon occhio comunque i pachi, come li chiamano qua, i pachi, i bangla, i cinga, insomma, che hanno questi... Perché offrono questi un servizio, negozi, perché se l'Umarell trova il negozio chiuso e si arrabbia, va lì e compra l'insalata, magari la compra anche migliore di quella che sta al supermercato della Coop. Sì, hanno dei prezzi più competitivi, poi dopo... Puoi negoziare, cosa che non fa il supermercato. Sì, e poi si instaura un rapporto di fiducia e poi queste persone che vengono dall'estero a lavorare, quindi hanno, cioè, dopo al fine gli Umarell dicono sì, questi vanno bene. Quindi vedi che ci sono dei punti in comune. Grazie per certo. Paolo della testimonianza importante. Gianni, buongiorno. Gianni. Io sono Gianni. Sì. Posso presentarmi rapidamente perché non credo di essere un Umarell, è bellissima l'icona dell'Umarell, complimenti. Però è quella che in questo momento ha cambiato il mondo, da questa mattina. Esatto. Beh, non è la prima volta che le cantonate e i soldatisti le prendono anche in Italia, quindi vuol dire che gli Umarell esistono anche da noi, magari sono connotati in una maniera diversa, perché ci sono Umarell e Umarell. A seconda delle circostanze. Allora, vediamo il suo punto di vista su quello che è accaduto. Il mio punto di vista è banale. Quello che è accaduto, credo che ormai l'abbiate descritto in una maniera così esauriente che non c'è nulla da aggiungere. Esattamente così. Siamo una radio di servizio. A me spiace, perché francamente ho 74 anni, sono un pensionato, vivo di pensione, però qualche risparmio l'avevo, questa botta qui, 40.000 euro, me l'ha fatti sparire in una notte. Non è un problema, pazienza, l'importante è guardare avanti. A lei con il Brexit ha perso 40.000 euro stanotte? Sì, stanotte sì. E come mai? Sì. Mi spieghi il tipo di investimento, solo per curiosità. Fondi senza rischio, tramite due banche specializzate, banche online, se vuole posso fare... No, questa è roba di Deborah Rosciani, solo per capire. Banche online, fondi di investimento. Però mi scusi Gianni, i suoi colleghi Umarell britannici hanno colpito alle spalle gli Umarell nel resto d'Europa e si ribadisce l'idea dell'egoismo umarellico: salviamo noi, al diavolo gli altri, rubiamo la canna per innaffiare il nostro orticello, se poi le cipolle del nostro vicino marciscono, peggio per loro. Abbiamo aggiunto un dato antropologico importante alle importantissime riflessioni che faranno gli esperti da oggi alla fine del mondo. Alla prossima.